Allora, amici ed amiche, appassionati ed appassionate di musica elettronica, eccomi qui. Siamo subito partiti con questo bel ritmo, questo bel tiro al quarto tribal, e così per movimentare nel modo giusto questo sabato notte, nel modo naturalmente underground, e con questa musica che fa muovere il piedino, ma anche insomma fa utilizzare la testa, sì, anche se non ci sono parole, però in realtà c'è quel qualcosa di ancestrale che comunque ci porta appunto a, come dire, un po' a ragionare sempre, ad utilizzare il cervello, perché insomma siamo persone pensanti. Allora, vi dicevo che questa prima traccia bella sparata appunto per questo sabato 25 febbraio è firmata da Jun Akimoto e Maban Soul, si intitola The Reunion, uscirà su Metroline Records, prima novità di questa settimana per quanto riguarda altro verso, altri suoni, altra musica. Dalla Sport Club vi sto per presentare adesso Axel Barsch con Prophetic Dreams, nella versione remixata da Matt Sargent. Questo è altro verso, questa è Onda Rossa. Veramente bella questa Prophetic Dreams, sogni profetici, quelli che speriamo tutti, nel senso che uno spera di sognare delle cose belle che poi magari si avverino. Non sempre accade così, anzi spesso e volentieri accade il contrario, perché poi di mezzo la testa delle persone poi non sempre è proprio quella, e poi magari le cose non vanno nel verso giusto. Ma che vuoi fare, del resto la vita è così, bisogna anche prenderla per come va. per come vanno le cose. L'importante è uscirne fuori e uscirne sempre a testa alta. Questa comunque era Prophetic Dreams nella versione di Matt Sargent su etichetta Sport Club Records. L'artista era Axel Barsch. Vi ricordo, state sempre ascoltando Altro Verso qui DJ Misk, sempre nel sabato notte elettronico di Onda Rossa. Adesso vi presento la prossima novità, un po' più diciamo tempo un po' più down, cioè un po' più rallentato, ma parliamo proprio di 2-3 bpm. Comunque il sound, lo stile è sempre quello, la classe ai vertici, al top, le percussioni ci sono anche per questo Beat Blocks Waterfall su Unknown Seasons.